Lasciami al lavoro!

lasciami. Tu fino a stasera stai fermo al lavoro e mi prometti, se a caso fortuna si attreccia bionda bruna, a pregar non verrà donna nessuna. Lo giuro, amore. Ancora no, perdona. Davanti la Madonna e tanto 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有限调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 欢迎继续收听歌舞剧场，在接下来的节目中，请欣赏歌剧中的著名选曲，曲目有《女人善变》《爱情天使》《我亲爱的爸爸》《今夜无人入睡》《晴朗的一天》《冰凉的小手》《多么美丽的姑娘》，由帕瓦罗蒂、弗雷尼、米尔奈斯、萨瑟兰、派巴尔迪、霍华德等演唱。 Chi le confida Bella figlia, bell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi, con detto, un detto sole, tu puoi le mie pene, le mie pene consolar. Vieni e senti del mio cuore il frequente palpitar. Thank you. Oh! aspetti, signorina, le dirò con due parole. Chi sa, che faccio vivo? Chi sono? Sono un poeta. Che cosa faccio? Scrivo e come vivo. In povertà mia lieta, canto da gran signore, rivedendi l'amore per sogni e per chimere, e per castelli in aria. Amore mio, ritorno curioso. Dammi il braccio, mia piccina. Yeah.

col cavaliere, la la la la la la la la la la la la. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barriere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e dove ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la parrucca, questo la barba, o la sanguigna, resti miliego, mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, questa la barba, resti miliego. Figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro. Ohimè, che furia, ohimè, che folla, uno alla volta, per carità, per carità, per carità. Uno alla volta, uno alla volta, per carità. Figaro, son qua. Figaro, son qua, figaro qua, figaro là, figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù, con pochissime sono col ventone, ne sono attaccato, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Amo figaro, bravo bravissimo, amo figaro, bravo bravissimo, te fortuna, te fortuna, te fortuna mancherà. Amo figaro, bravo bravissimo, amo figaro, bravo bravissimo, te fortuna, te fortuna mancherà. Sarà il secondo della città.